Capitolo 29. Una nuova epoca nella vita di Anna. Anna stava riportando nella stalla le mucche dai pascoli dietro la fattoria, percorrendo il sentiero degli innamorati. Era una sera di settembre e ogni minimo spazio aperto del bosco traboccava del rosso rubino del tramonto. Anche il sentiero era spruzzato di luce qua e là, ma sotto gli aceri era già quasi buio. Alla base degli abeti, il terreno sgombro dal sottobosco era velato da una foschia violacea che sembrava vino vaporizzato. Il vento scuoteva le cime degli alberi. La musica più dolce del mondo è proprio quella che la brezza fa suonare al tramonto fra i rami degli abeti. Le mucche ciondolavano placide lungo il sentiero e Anna le seguiva immersa nelle sue fantasie, ripetendo a voce alta il canto di battaglia del Marmion, un altro testo inglese dell'inverno precedente che la signorina Stacy aveva fatto imparare a memoria alla classe. Tutta presa dai versi pieni di forza ed energia e dal frastuono delle lance evocato dalle immagini poetiche. Quando arrivò al verso «I militi instancabili, lancia in testa, infittirono la nera inespugnabile foresta», si fermò, estasiata, e chiuse gli occhi per potersi immaginare meglio in quella scena eroica. Quando li riaprì, vide Diana che usciva dal cancello di casa sua, così fiera e soddisfatta, che fu subito evidente che aveva qualche novità da raccontare, ma Anna non voleva mostrarsi troppo curiosa. «Oh, Diana, non è un sogno di porpora il cielo stasera? Mi dà una gioia di vivere, sapessi? La mattina penso sempre che sia quella l'ora più bella, ma quando arriva la sera cambio regolarmente idea. Un bel tramonto è una delizia». «Sì, è una serata stupenda», convenne l'amica. «Oh, Anna, c'è una notizia incredibile. Indovina, ti do tre possibilità. Charlotte Gillis ha deciso finalmente di sposarsi in chiesa e la signora Allan ci ha chiesto di fare le decorazioni», esclamò Anna. «No, il fidanzato di Charlotte non accetterebbe mai, perché nessuno si è ancora sposato in questa chiesa e lui sostiene che sembrerebbe un funerale. È una vera cattiveria perché sarebbe troppo divertente. Ritenta, sarai più fortunata». «La madre di Jane le permette di fare una festa per il suo compleanno?» Diana scosse il capo e i suoi occhi neri brillarono divertiti. «Non mi viene in mente nient'altro», disse Anna esasperata, «a meno che Moody Spurgeon MacPherson non ti abbia accompagnata a casa dall'incontro di preghiera ieri sera. È così?» «Ma scherzi!» fu la reazione sprezzante di Diana. «A parte che se fosse successo non andrei certo in giro a vantarmene, quell'orrido essere. Comunque lo sapevo che non avresti indovinato. Oggi mia madre ha ricevuto una lettera da zia Josephine. Ci ha invitate, me e te, martedì prossimo. Vuole che la raggiungiamo in città per andare a vedere la grande esposizione. Ecco». «Oh, Diana!» disse Anna con un filo di voce, appoggiandosi al tronco di un acero per l'emozione. «Sul serio? Oh, ho paura che Marilla non mi dia il permesso. Dirà che non le va di incoraggiarmi a vagabondare senza scopo». Ha risposto così la settimana scorsa, quando Jane mi ha invitato ad andare in calesse all'hotel di White Sands per lo spettacolo degli americani. Ci tenevo tantissimo, ma Marilla ha detto che mi conveniva stare a casa a fare i compiti e che Jane avrebbe dovuto fare lo stesso. Sapessi quanto ci sono rimasta male, Diana. Ero così arrabbiata che non ho nemmeno detto le preghiere prima di dormire. Poi però mi sono pentita e mi sono alzata di notte per pregare». «Sai cosa facciamo?» propose Diana. «Mandiamo mia madre a chiederglielo, così sarà molto più facile che ti dia il permesso e se accetterà ci divertiremo un mondo. Non sono mai stata a una grande esposizione e mi secca tantissimo sentire le altre ragazze che parlano dei loro viaggi. Jane e Ruby ci sono già state 2 volte e con quest'anno sarà la terza». «Non ci voglio pensare finché non sarò sicura di poter venire», dichiarò Anna risoluta. «Non potrei sopportare di illudermi e poi restare delusa. Sarebbe una sofferenza enorme». «Comunque, se riuscissi a venire, sarò felice di avere il cappotto nuovo. Marilla diceva che non ne avevo proprio bisogno, che quello vecchio andava bene per un altro inverno e che dovevo accontentarmi di avere un vestito nuovo. In effetti l'abito è davvero carino, Diana, di un bell'azzurro scuro tagliato all'ultima moda. Marilla non vuole assolutamente che Matthew vada di nuovo dalla signora Linde, quindi usa sempre modelli moderni per i miei vestiti. E io sono proprio contenta. È molto più facile essere buone quando si è vestite bene, almeno per me è così. Magari per chi è buono di natura non fa molta differenza. Comunque, Matthew ha detto che mi ci voleva anche un cappotto nuovo, così Marilla ha comprato una bellissima pezza di panno blu e il cappotto l'ha fatto confezionare da un vero sarto a Carmody. Dovrebbe essere pronto per sabato sera. Oh, non vedo l'ora. Faccio una fatica tremenda a non immaginare già il momento in cui entrerò in chiesa domenica con il cappotto e il cappello nuovi, perché ho paura che queste cose non si debbano immaginare. Però a volte mi salta in mente all'improvviso, nonostante tutti i miei sforzi. Il cappello è così carino. Me l'ha comprato Matthew quando siamo andati a Carmody. È uno di quei cappellini che vanno di moda adesso, di velluto blu, con la passemaneria dorata e i fiocchi. A proposito, anche il tuo è molto elegante, Diana, ti sta benissimo. Quando ti ho vista entrare in chiesa domenica scorsa, sono stata fierissima che fossi la mia amica del cuore. Ma secondo te è sbagliato pensare tanto ai vestiti? Marilla sostiene che è peccato, però è un argomento così interessante, no? Marilla diede il permesso e si mise d'accordo con il signor Barry che avrebbe accompagnato le ragazze in città il martedì successivo. Charlottetown distava 30 miglia da Avonlea e il signor Barry intendeva andare e tornare nello stesso giorno, perciò fu necessaria una levataccia. Anna era talmente contenta che non le costò fatica e quel martedì mattina si alzò prima dell'alba. Le bastò un'occhiata fuori per sapere che la giornata sarebbe stata bella, poiché il cielo a est, sopra gli abeti della foresta stregata, era argenteo, limpido e senza una nuvola. In lontananza, oltre gli alberi, intravide una luce nella mansarda di Orchard Slope. Anche Diana era sveglia. Quando Matthew accese il fuoco, la ragazzina era già vestita e aveva già preparato la colazione, prima che Marilla scendesse. Ma era troppo emozionata per riuscire a mangiare qualcosa. Dopo colazione si mise il cappellino e il cappotto nuovi e si avviò di buon passo verso Orchard Slope, oltrepassando il torrente e il boschetto di abeti. Il signor Barry e Diana la stavano aspettando e poco dopo partirono. Il viaggio fu piuttosto lungo, ma le due amiche si godettero ogni attimo del tragitto. Era una meraviglia percorrere al trotto le strade umide nella luce rosata del primo mattino che si spandeva sui campi sgombri dopo la recente mietitura. L'aria era fresca e frizzante. Lievi banchi di foschia si sfilacciavano nelle vallate e fluttuavano verso la sommità delle colline. A tratti la strada attraversava boschi in cui gli aceri stavano cominciando a stendere festoni di rami scarlatti e in certi punti superava un corso d'acqua con ponti che risvegliavano in Anna una paura antica ma quasi piacevole. A tratti la via seguiva la riva di un golfo e costeggiava gruppi di capanne di pescatori scurite dalla salsedine, per poi risalire sulle alture intorno, dalle quali si riusciva a scorgere ora una cresta lontana, ora uno sprazzo di cielo di un azzurro un po' polveroso. Ovunque il percorso le portasse, le ragazze avevano sempre qualcosa di interessante da commentare. Era quasi mezzogiorno quando arrivarono in città e presero la strada che portava a Beechwood. L'edificio era antico e gradevolmente armonioso, arretrato nel giardino rispetto alla strada, circondato da un vasto parco di olmi e faggi frondosi. La signorina Barry accolse le ragazze sulla porta con un lampo negli occhi scuri e vivaci. «Oh, finalmente sei venuta a trovarmi, Anna!» esclamò. «Santo cielo, come sei cresciuta! Sei più alta di me adesso e sei molto più carina!» Anche se scommetto che questo non devo certo dirtelo io, lo sai da sola. A dire il vero, no, replicò la ragazzina, felice del complimento. So che non ho più tante lentiggini e ne sono felice, ma non osavo sperare che ci fossero altri miglioramenti. Sono contenta che lei ne abbia trovati, signorina Barry. La casa della signorina Barry era arredata con incredibile magnificenza, come raccontò poi Anna a Marilla. Le due ragazzine di campagna rimasero un po' intimidite dall'eleganza e dalla solennità del salotto in cui la padrona di casa le fece accomodare per poi andare a occuparsi della cena. «Certo che è proprio come un palazzo, vero?» bisbigliò Diana. «Non ero mai venuta a casa di mia zia Josephine. Non immaginavo che ci fosse tutto questo lusso. Caspita, quanto mi piacerebbe che la vedesse Julia Bell, che si dà sempre un sacco di arie per il salotto di sua madre!» «Tappeto di velluto», sospirò Anna soddisfatta. E tendaggi di seta. Ho sempre sognato queste cose, Diana. Anche se in fondo non credo che mi sentirei a mio agio, sai, questa stanza è talmente piena di oggetti stupendi che non resta spazio per immaginarsi nulla. È proprio questa la consolazione dell'essere povero. Hai sempre tante cose da immaginare. Quel soggiorno in città tornò e ritornò nei discorsi delle due ragazze per molti anni. Fu un susseguirsi di delizie dal primo all'ultimo giorno. Il mercoledì la signorina Barry le accompagnò alla grande esposizione dove passarono tutta la giornata. Oh, è stato favoloso, raccontò poi Anna a Marilla. Non avrei mai immaginato che potesse essere così appassionante. Non so dire quale settore mi sia sembrato più interessante, ma i cavalli, i fiori e le decorazioni tessili, forse sì, sono quelli che mi sono piaciuti di più. Josie Pye ha vinto il primo premio per il pizzo lavorato a maglia. Sai, sono stata davvero contenta per lei e mi ha fatto piacere riconoscerlo, perché vuol dire che sto migliorando se sono felice per un successo di Josie, no, Marilla? Le mele Gravenstein del signor Harmon Andrews hanno ricevuto il secondo premio e un maiale del signor Bell è arrivato primo. Diana ha detto che secondo lei era ridicolo che un sovrintendente della scuola domenicale partecipasse al concorso per i maiali più belli, ma a dire il vero io non sono d'accordo. Tu cosa ne pensi? Lei sostiene che d'ora in poi ogni volta che lo vedrà pregare con aria solenne le tornerà in mente il maiale. Clara Louise Macpherson è stata premiata per i suoi dipinti e la signora Linde ha vinto il primo premio per il burro e il formaggio fatti in casa. Beh, Avon lì era ben rappresentata, no? C'era anche la signora Linde mercoledì. Non avevo mai capito quanto le voglio bene finché non ho visto la sua faccia conosciuta in mezzo alla folla di estranei. C'erano migliaia di persone, Marilla, sapessi. Mi sono sentita terribilmente insignificante e inutile. Poi la signorina Barry ci ha portato in tribuna a vedere le corse dei cavalli. La signora Linde non è voluta venire, però. Ha detto che le corse di cavalli sono un abominio e che lei, come membro della Chiesa, considera suo sacrosanto dovere dare il buon esempio, tenendosene alla larga. Anche se c'era tantissima gente e secondo me nessuno si è accorto della sua assenza. Però non credo che dovrei andare spesso alle corse perché sono troppo affascinanti. Diana si è così entusiasmata che mi ha proposto di scommettere 10 centesimi sulla vittoria di un cavallo fulvo. Secondo me non avrebbe vinto, ma non ho voluto scommettere comunque perché voglio raccontare alla signora Allan tutto quello che abbiamo fatto e direi proprio che questa non è una bella cosa da riferire. È sempre sbagliato fare qualcosa che non potresti raccontare alla moglie di un pastore ed essere amica della moglie di un ministro della Chiesa è come avere una coscienza supplementare. Inoltre, sono stata proprio felice di non aver scommesso perché alla fine il cavallo ha vinto, aveva ragione Diana e io avrei perso i miei 10 centesimi. Insomma, la virtù è stata premiata. Oh, sai che abbiamo visto un uomo volare in mongolfiera? Quanto mi piacerebbe salirci, Marilla. Sarebbe davvero emozionante. E abbiamo anche incontrato uno che prediceva il futuro. Pagavi 10 centesimi e un uccellino pescava un foglietto con l'oracolo. Allora la signorina Barry ci ha dato 10 centesimi ciascuna, a me e a Diana, per farci predire il futuro. Il mio è che sposerò un uomo bruno molto ricco e andrò a vivere al di là del mare. Ho esaminato con attenzione tutti gli uomini bruni che incontravo, ma non ce n'era nessuno che mi piacesse. In ogni caso, credo sia ancora un po' presto per cercarlo. Oh, è stata una giornata indimenticabile, Marilla. Sapessi, ero così stanca che poi non riuscivo a prendere sonno. La signorina Barry ci ha sistemate nella camera degli ospiti, come ci aveva promesso. È una bella stanza elegante, ma sai, Marilla, chissà perché dormirci non mi è sembrato più affascinante come credevo una volta. È questo il brutto del crescere, sto cominciando a rendermene conto. Quando finalmente ottieni qualcosa che hai tanto desiderato da bambino, non ti sembra più così meraviglioso. Il giovedì le ragazze fecero un giro in carrozza nel parco e la sera la signorina Barry le portò a un concerto all'Accademia di Musica, dove si sarebbe esibita una famosa prima donna. Per Anna la serata fu uno spettacolo sfavillante, traboccante di meraviglie dal primo all'ultimo istante. Oh, Marilla, È impossibile descrivere tutto. Ero talmente emozionata che non riuscivo a parlare. E tu capisci bene cosa significa questo per me? Sono rimasta lì, incantata e immobile, in perfetto silenzio. Madame Selisky era di una bellezza assoluta. Indossava uno splendido abito di satin bianco e gioielli di diamanti. Ma quando ha cominciato a cantare, non ho più pensato ad altro. Oh, non riesco nemmeno a descrivere come mi sentivo. Avevo l'impressione che comportarmi come si deve non sarebbe mai più stato difficile, come quando mi perdo a contemplare le stelle. Mi si sono riempiti gli occhi di lacrime, ma erano lacrime di gioia. Quando il concerto è finito mi è dispiaciuto molto e ho detto alla signorina Barry che proprio non sapevo come sarei potuta tornare a una vita normale. Lei mi ha risposto che magari un bel gelato preso nel ristorante di fronte poteva aiutarmi. Sembrava prosaico, ma è stato proprio così. Il gelato era delizioso, Marilla, ed è stato così divertente stare lì sedute a gustarlo alle 11 di sera, anche se forse è un po' disdicevole, lo so. Diana continuava a ripetere che sentiva di essere nata per la vita di città. La signorina Barry mi ha chiesto cosa ne pensassi io, ma le ho risposto che dovevo rifletterci bene prima di esprimere la mia opinione. Così, quando sono andata a dormire, mi sono messa a soppesare bene la questione. È quello il momento migliore per meditare sulle cose. E sai, Marilla, sono giunta alla conclusione che io non sono nata per la vita di città e ne sono felice per giunta. Certo, ogni tanto è sicuramente piacevole mangiare il gelato in un bel posto la sera tardi, ma alla sera tardi preferisco starmene a dormire nella mia mansarda, sapendo, anche nel sonno, che fuori brillano le stelle e il vento soffia tra gli abeti al di là del torrente. La mattina dopo, a colazione, l'ho detto alla signorina Barry e lei è scoppiata a ridere. In generale, la zia di Diana sembra trovare divertente tutto quello che dicevo, anche le cose più serie e solenni, sai? Non sono tanto sicura che mi abbia fatto piacere, Marilla, perché io non volevo essere divertente. E in ogni caso, è una signora davvero ospitale e ci ha trattato come regine a me e a Diana. Venerdì arrivò il momento di tornare a casa e il signor Barry andò a riprendere le ragazzine. Bene, signorine, mi auguro che vi siate divertite, le salutò la signorina Barry. Ci siamo divertite moltissimo, zia, confermò Diana. E tu, Anna? Oh, mi sono goduta ogni secondo di queste giornate, rispose lei, gettando di stinto le braccia al collo dell'anziana signorina e baciandola sulle guance avvizzite. Diana, che non avrebbe mai osato fare un gesto simile, rimase esterrefatta vedendo Anna che si prendeva quella libertà. Ma la zia Josephine fu contenta e dalla veranda seguì con lo sguardo il calesse che spariva in lontananza. Poi, con un sospiro, rientrò nella grande casa, che le parve molto più solitaria senza quelle due fresche e giovani presenze. Per dirla tutta, la signorina Barry era una donna in là con gli anni piuttosto egoista e non si era mai preoccupata di nessuno a parte se stessa. Attribuiva valore alle persone che le stavano intorno soltanto nella misura in cui le servivano o la facevano divertire. Anna l'aveva divertita in quei giorni. Per questo era entrata nelle sue grazie. Naturalmente la signorina faceva poco caso ai discorsi bizzarri e solenni della ragazzina, ma apprezzava il suo entusiasmo, la sua freschezza, le sue emozioni trasparenti, i suoi modi spontanei e la dolcezza dei suoi tratti. Quando ho saputo che aveva adottato una bambina da un orfanotrofio, ho pensato che Marilla Cuthbert fosse una vecchia pazza, si disse. Ma mi rendo conto adesso che il suo non è stato uno sbaglio. Se avessi in casa una ragazzina come Anna sarei una donna migliore e di sicuro più felice. Anna e Diana si godettero il viaggio di ritorno quanto quello di andata, anzi lo trovarono addirittura più piacevole perché avevano entrambe la gioiosa consapevolezza che alla meta le aspettava a casa loro. Era il tramonto quando attraversarono White Sands e imboccarono la strada costiera. Poco oltre, le colline di Avonlea si stagliavano scure contro il cielo color zafferano. Alle loro spalle la luna sorgeva dal mare, illuminandolo e trasfigurandolo con il suo chiarore. Ogni piccola insenatura lungo la strada serpeggiante era una meraviglia di riflessi cangianti. Le onde si frangevano contro le rocce, sommerse da un dolce mormorio, e l'aria fresca era satura del profumo del mare. Oh, com'è bello essere vivi e tornare a casa, sussurrò Anna. Quando attraversò il ponte di tronchi sul ruscello, vide la luce della cucina di Green Gables che fremeva poco lontano dandole il bentornata e il fuoco del camino che balenava attraverso la porta socchiusa, proiettando il suo tiepido bagliore rosato nella fresca notte autunnale. Anna allungò allegramente il passo, risalì il pendio, percorse il vialetto ed entrò in cucina, dove una cena calda e appetitosa l'aspettava pronta in tavola. Oh, eccoti di ritorno, esclamò Marilla posando subito il lavoro a maglia. Sì, è bellissimo essere di nuovo a casa, ribatté la ragazzina felice. Potrei baciare tutto, perfino la pendola. Oh, Marilla, il pollo arrosto! Non dirmi che l'hai preparato apposta per me. Certo, proprio per te, confermò la donna. Ho pensato che saresti stata affamata dopo un viaggio così lungo e che ci voleva qualcosa di buono per accoglierti. Corri a cambiarti, si cena appena arriva Matthew. Sono contenta che tu sia tornata, lo ammetto. Questo posto è un deserto senza di te. Non ho mai passato 4 giorni così lunghi in vita mia. Dopo cena, Anna si sedette davanti al fuoco, tra Matthew e Marilla, e fece un resoconto completo del suo soggiorno in città. Sono stati giorni magnifici, concluse Felice, e sento che questo viaggio ha segnato una nuova epoca della mia vita. Però la parte migliore è stata tornare a casa. Capitolo 30. Si organizza la classe per la Queen's Academy. Marilla si posò in grembo il lavoro a maglia e si appoggiò allo schienale della sedia. Aveva gli occhi stanchi e pensò che doveva cambiare gli occhiali la prima volta che fosse andata in città, perché negli ultimi tempi gli occhi si affaticavano sempre più in fretta. Era quasi buio. Il crepuscolo cupo di novembre aveva avvolto Green Gables e in cucina l'unica luce era quella proiettata dalle fiamme rosse che guizzavano nella stufa. Anna era seduta a gambe incrociate sul tappeto davanti al fuoco, con gli occhi fissi sul vivace bagliore che ricordava la luce di 100 estati sprigionata dal ciocco di acero. Fino a poco prima stava leggendo, ma il libro era scivolato sul pavimento ormai e la ragazzina sognava ad occhi aperti, con le labbra socchiuse in un sorriso. Scintillanti castelli in aria prendevano forma nelle nebbie e fra gli arcobaleni della sua inarrestabile fantasia. Fra le nuvole viveva avventure meravigliose e appassionanti, avventure che terminavano sempre con un trionfo e non la facevano mai finire nei pasticci, come le capitava invece nella vita reale. Marilla la osservava con tenerezza, un sentimento che non si sarebbe mai rivelato in una luce più intensa di quel dolce miscuglio di riflessi del fuoco e del tramonto. La capacità di esprimere con schiettezza, a parole e nei fatti, l'affetto che nutriva per il prossimo era una cosa che difficilmente Marilla sarebbe mai riuscita a imparare. Eppure, aveva imparato ad amare quella ragazzina esile dagli occhi vivaci, le voleva un bene tanto più forte e profondo proprio perché non lo esprimeva in modo evidente. Dentro di sé temeva che quell'affetto la facesse essere troppo benevola. Aveva la spiacevole sensazione che fosse peccato votare in modo così assoluto il proprio cuore a un solo essere come aveva fatto lei con Anna, e forse si sforzava inconsapevolmente di farsi perdonare quel peccato, mostrandosi più esigente e critica di quanto sarebbe stata se avesse voluto un po' meno bene a quella ragazzina. Anna non aveva idea di quanto l'anziana zitella le fosse affezionata, poco ma sicuro. A volte pensava fra sé, con un certo dispiacere, quanto fosse complicato soddisfare Marilla, che nei suoi confronti non era mai né indulgente né comprensiva. Ma ogni volta respingeva subito quel pensiero, si rimproverava e ricordava fra sé quanto le fosse comunque debitrice. Anna, disse all'improvviso Marilla, mentre eri fuori con Diana oggi pomeriggio è passata la signorina Stacy. La ragazzina trasalì, sospirò profondamente e riemerse dal suo mondo fantastico. Oh, sul serio? Mi spiace non essere stata in casa. Perché non mi hai chiamato, Marilla? Diana e io eravamo giù nella foresta stregata. In questa stagione il bosco è magnifico. tutte le cose più piccole, le felci, le foglioline più delicate, le bacche rosse, sono già andate a dormire e sembra che qualcuno le abbia coperte con uno strato di foglie sotto cui rintanarsi fino a primavera. Secondo me è stata una piccola fata grigia con la sciarpa color arcobaleno che è scesa in punta di piedi lungo un raggio dell'ultima luna piena e ha sistemato tutto con tanta cura. Ma Diana non mi ha voluto credere, non ha mai dimenticato la terribile ramanzina che le fece sua madre per aver immaginato che ci fossero gli spettri nella foresta stregata. Quell'episodio ha avuto un pessimo effetto sulla sua fantasia, gliel'ha praticamente distrutta. A proposito di distruzione, la signora Linde dice che Myrtle Bell ha l'anima distrutta. Ho chiesto a Ruby Gillis come mai Myrtle sarebbe distrutta e Ruby dice che secondo lei è perché il fidanzato l'ha lasciata. Ruby Gillis non pensa ad altro che ai giovanotti e più diventa grande peggio è. I maschi stanno bene al posto loro e non è il caso di tirarli in ballo di continuo, no? Anzi, Diana e io stiamo seriamente pensando di giurare solennemente di non sposarci mai, diventare due anziane zitelle e vivere insieme per sempre. Anche se a dire il vero, lei non è ancora del tutto convinta e dice che sarebbe più nobile sposare un giovane mascalzone avventato e disonesto e riportarlo sulla retta via. Diana ed io discutiamo spesso di questioni serie, sai, ci sentiamo molto più grandi di prima e non ci sembra giusto chiacchierare sempre di stupidaggini da bambine. Avere quasi 14 anni è un fatto così importante e significativo, Marilla. Mercoledì scorso la signorina Stacy ha portato al ruscello il gruppo di noi ragazze sopra i 10 anni e ce ne ha parlato. Ha detto che dobbiamo fare molta attenzione alle abitudini che prendiamo e agli ideali su cui ci formiamo in questi anni così fondamentali, perché una volta raggiunti i 20, il nostro carattere ormai sarà definito e avremo già costruito le basi per tutta la nostra vita futura. Ha detto anche che se quelle fondamenta non saranno ben salde e resistenti, non potremo mai costruirci sopra una casa salda e resistente. Io e Diana ne abbiamo discusso a lungo tornando a casa da scuola. Ci siamo sentite molto importanti e abbiamo deciso che ci sforzeremo in tutti i modi di prendere abitudini rispettabili, imparare tutto il possibile ed essere sempre più giudiziose. Così a 20 anni avremo un ottimo carattere. Certo che è un pensiero orribile quello di compiere 20 anni, Marilla. Suona così vecchio e adulto. A proposito, come mai è venuta la signorina Stacy questo pomeriggio? È quello che stavo cercando di dirti, Anna, se non mi avessi interrotta come al solito. Comunque, la maestra è venuta per parlarmi di te. Di me? Anna si spaventò, poi arrossì ed esclamò: Oh, lo so cosa ti ha detto. Volevo confessartelo, Marilla, ma in tutta sincerità me ne sono proprio dimenticata. La signorina Stacy mi ha scoperta che leggevo Ben-Hur a scuola ieri pomeriggio, mentre avrei dovuto studiare la storia del Canada. Me l'ha prestato Jane Andrews e io lo stavo leggendo durante la ricreazione e quando siamo rientrati in classe ero appena arrivata alla corsa delle bighe. Dovevo sapere come andava a finire. Non resistevo, anche se ero sicura che avrebbe vinto Ben-Hur, altrimenti non ci sarebbe stata giustizia. Così ho aperto il libro di storia sul banco e mi sono messa Ben-Hur sulle ginocchia. Sembrava che stessi studiando, invece mi stavo godendo il romanzo ed ero distratta, al punto che non mi sono neanche accorta che la signorina Stacy si stava avvicinando. A un tratto ho alzato gli occhi e me la sono trovata davanti che mi rimproverava con lo sguardo. Non ti dico che vergogna, Marilla. Anche perché ho sentito Josie Pye che ridacchiava. La maestra mi ha ritirato il libro senza dire una parola. Poi all'intervallo mi ha fatta restare in classe per parlarmi. Ha detto che mi ero comportata malissimo per due motivi. Primo perché stavo sprecando il tempo dedicato allo studio. Secondo perché stavo ingannando la mia insegnante fingendo di leggere il libro di storia quando invece leggevo un romanzo. Io non mi ero proprio resa conto che stavo ingannando qualcuno, Marilla, sul serio, e saperlo mi ha sconvolta. Ho pianto, ho chiesto scusa alla signorina Stacy e le ho promesso che non sarebbe successo mai più. Mi sono offerta di fare un sacrificio e di non riaprire Ben-Hur per una settimana, nemmeno per vedere come andava a finire la corsa delle bighe. Ma la signorina Stacy ha detto che non ce n'era bisogno e che mi perdonava. Quindi, a pensarci bene, non mi pare sia stato molto gentile da parte sua venire qui a parlartene. Infatti, non mi ha neanche accennato a questa faccenda, Anna, quindi evidentemente sono i rimorsi di coscienza che te lo fanno credere. Non dovresti portare romanzi a scuola, lo sai, ne leggi già fin troppi. Quando ero ragazza io, non mi era concessa neppure un'occhiata a nessun tipo di romanzi, figurati. Oh, ma non puoi definire Ben-Hur un semplice romanzo. In realtà si tratta di un testo religioso, obiettò Anna. Certo, è un po' troppo emozionante per essere una lettura adatta alla domenica. Infatti lo leggo solo durante la settimana. Tra l'altro, ultimamente leggo solo libri che la signorina Stacy o la signora Alan abbiano giudicato adatti a una ragazza di 13 anni e tre quarti. Me l'ha fatto promettere la maestra, dopo che un giorno mi ha sorpresa a leggere un libro intitolato L'orrendo mistero della casa stregata. Me l'aveva prestato Ruby Gillis. Era affascinante e davvero spaventoso. Mi faceva gelare il sangue nelle vene. Però la signorina Stacy ha detto che era un libro sciocco, immorale. E mi ha chiesto di non leggere più né quello né nient'altro di simile. Non mi è costato fatica promettere di non leggere più libri del genere, ma è stata una vera tortura restituire il libro a Ruby senza sapere come andava a finire. Però il mio affetto per la signorina Stacy è stato più forte della tentazione e ho fatto come voleva lei. Sai, Marilla, è incredibile quello che si può riuscire a fare quando si desidera con tutto il cuore accontentare una persona. Bene, a questo punto mi conviene accendere la lampada e mettermi a lavorare, disse Marilla. È evidente che non ti interessa sapere cosa aveva da dirmi la signorina Stacy. Sei più compiaciuta di sentire il suono della tua voce. Oh no, Marilla, ti prego, lo voglio sapere, esclamò Anna con aria contrita. Non dico nemmeno un'altra parola, neanche una. Lo so che parlo troppo, ma mi sto sforzando di cambiare. Oh, dico sempre troppe cose. Oh, ma se tu sapessi quante altre ne vorrei dire, e invece mi trattengo, apprezzeresti il mio impegno. Per favore, Marilla, parla. D'accordo. La signorina Stacy vorrebbe organizzare un gruppo di alunni del livello più avanzato per prepararli tutti insieme all'esame di ammissione all'Accademia di Studi Superiori. Pensa di aggiungere un'ora supplementare di lezioni dopo il normale orario scolastico. È venuta a chiedere a me e a Matthew se desideriamo che tu partecipi. Ma io vorrei sapere cosa ne pensi tu, Anna. Ti piacerebbe andare alla Queen's Academy e sostenere l'esame per diventare insegnante? Oh, Marilla! Anna balzò in piedi, le mani giunte davanti a sé. È il sogno della mia vita, o meglio, degli ultimi 6 mesi. Da quando Ruby e Jane hanno cominciato a parlare di prepararsi per l'ammissione. Non ho detto niente perché credevo che fosse inutile, ma mi piacerebbe moltissimo insegnare. Però non sarà troppo costoso. Il signor Andrews dice che ha speso $150 per iscrivere Prissy e lei in geometria era molto più brava di me. Di questo non ti devi preoccupare. Quando io e Matthew abbiamo deciso di crescerti, abbiamo anche stabilito che avremmo fatto tutto il possibile per darti una buona istruzione. Sono convinta che una ragazza debba essere in grado di mantenersi da sola, anche se non ne ha la necessità materiale. Finché ci saremo io e Matthew, Green Gables sarà sempre casa tua. Ma non si sa mai cosa può succedere in questo mondo, ed è sempre meglio essere pronti a qualsiasi evenienza. Quindi, se ti fa piacere, puoi far parte del gruppo che si preparerà per la Queen's Academy. Oh, grazie, Marilla, grazie! Anna le gettò le braccia intorno alla vita e le rivolse uno sguardo serio. Sono profondamente grata a te e a Matthew. Studierò e mi impegnerò al massimo delle mie capacità perché possiate essere fieri di me. Non potreste aspettarvi troppo in geometria, questo lo sapete già, ma per tutto il resto penso di potermela cavare se mi do da fare. Oh, ritengo che te la caverai benissimo. La signorina Stacy disse che sei dotata e diligente. Per nessun motivo Marilla avrebbe mai riferito ad Anna le parole esatte della maestra su di lei, perché ne avrebbe lusingata la vanità. Non devi sforzarti troppo né rischiare la salute sui libri, perché non c'è fretta. L'esame di ammissione sarà fra un anno e mezzo, quindi è meglio cominciare per tempo ed essere ben preparati, così ha detto la signorina Stacy. Oh, d'ora in poi mi concentrerò sullo studio più che su ogni altra cosa, dichiarò Anna felice, perché ho uno scopo nella vita. Il signor Allan dice che tutti dovrebbero averne uno e perseguirlo con costanza. Però dice anche che prima bisogna essere certi che sia uno scopo valido. E io penso che il desiderio di diventare una maestra brava come la signorina Stacy sia uno scopo valido. Non trovi, Marilla? Mi sembra una professione nobilissima. Quando giunse il momento, fu costituita la classe per la Queen's Academy. Ne facevano parte Gilbert Blythe, Anna Shirley, Ruby Gillis, Jane Andrews, Josie Pye, Charlie Sloane e Moody Spurgeon Macpherson. Diana Barry no, perché i suoi genitori non intendevano farle frequentare la scuola superiore. Per Anna fu una tragedia. Dalla famosa notte in cui Minnie May aveva avuto la laringite difterica, non era più successo che lei e Diana fossero separate. Così, la prima sera in cui il gruppo destinato alla Queens rimase a scuola per la lezione supplementare, e Anna vide Diana uscire lentamente insieme agli altri per tornare a casa e percorrere da sola il viottolo delle betulle e la valle delle violette, dovette fare uno sforzo titanico per restare seduta al suo posto e non correre dietro all'amica. Le salì un groppo in gola e si affrettò a nascondersi dietro le pagine della grammatica latina perché nessuno si accorgesse che stava per scoppiare a piangere. Non voleva assolutamente che Gilbert Blythe o Josie Pye lo notassero. Oh, Marilla, mi è sembrato proprio di provare l'amaro gusto della morte, come ha detto il signor Allan nel sermone di domenica scorsa, quando ho visto Diana andarsene da sola, confessò afflitta quella sera. Sarebbe stato stupendo se anche lei avesse studiato per la missione, però, come dice sempre la signora Linde, non può esserci niente di perfetto in questo nostro mondo imperfetto. A volte non è proprio consolante la nostra vicina, ma di certo molte delle cose che dice sono vere. Comunque, far parte della classe per la Queens sarà molto interessante, credo. Jane e Ruby vogliono preparare l'esame per diventare maestre. È il massimo della loro ambizione. Ruby dice che dopo aver finito insegnerà soltanto per un paio d'anni, poi vuole sposarsi. Jane invece sostiene che dedicherà tutta la vita all'insegnamento e non si sposerà mai, perché se lavori ricevi un salario, mentre un marito non ti pagherà mai nulla e brontolerà se gli chiederai una parte dei soldi guadagnati dalle vendite di burro e uova. Immagino che parli per esperienza, perché la signora Linde racconta che suo padre è avaro e cattivo come il latte inacidito. Josie Pye dice che va alle scuole superiori solo per avere un buon livello di istruzione, perché lei non avrà mai bisogno di guadagnarsi da vivere. Ovviamente dice anche che la cosa è diversa per gli orfani che vivono della carità altrui, quelli sì che devono darsi da fare. Moody Spurgeon pensa di diventare ministro della Chiesa. La signora Linde dice che non potrebbe fare altro con un nome del genere da portarsi in giro. Spero che non sia una cattiveria da parte mia, Marilla, ma il pensiero di Moody che fa il pastore mi fa troppo ridere. Ha un'aria così buffa, con quella faccia tonda e grassoccia, gli occhietti azzurri e le orecchie a sventola ai lati della testa. Magari crescendo gli verrà un'aria più intellettuale. Charlie Sloane vuole entrare in politica e diventare deputato, ma la signora Linde dice che non riuscirà mai a farsi eleggere in Parlamento perché gli Sloane sono gente onesta e al giorno d'oggi in politica fanno carriera soltanto i farabutti. E Gilbert Blythe cosa vuole fare? Si informò Marilla, vedendo che Anna apriva il libro di latino. Oh, non ho la più pallida idea di quali siano le sue aspirazioni. Sempre che ne abbia, ribatté la ragazzina infastidita. Ormai tra Gilbert e Anna era guerra aperta. Un tempo la rivalità nasceva solo da lei, ma a quel punto non c'erano più dubbi che Gilbert mirasse a essere il primo della classe quanto lo desiderava Anna, e il ragazzo era un nemico valido e tenace. Gli altri alunni ammettevano, senza dirlo, la superiorità dei due contendenti e non si sognavano neanche di competere con loro. Dal giorno in cui Anna allo stagno gli aveva rifiutato il perdono, Gilbert non aveva più mostrato di accorgersi dell'esistenza di lei, se non per la suddetta rivalità. Parlava e scherzava con le altre compagne, con cui scambiava libri e giochi, discuteva di lezioni e progetti e a volte ne accompagnava qualcuna a casa dopo le riunioni di preghiera o del circolo culturale. Quanto ad Anna Shirley, si limitava a ignorarla, come se non esistesse, e dopo un po' lei si rese conto che non le piaceva essere trattata così. Invano si ripeteva, scrollando sdegnosa la testa, che non gliene importava un bel niente, ma in fondo al suo piccolo cuore femminile e capriccioso sapeva bene che invece le importava, e che se si fosse presentata un'altra occasione come quella del lago delle acque scintillanti, di sicuro non se la sarebbe lasciata sfuggire. Era come se di colpo, e con una certa segreta delusione, si fosse accorta che l'antico rancore nutrito per Gilbert non esisteva più, era svanito proprio quando lei avrebbe avuto più bisogno di quello stimolo per sostenersi. Ed era inutile che si sforzasse di richiamare alla mente ogni particolare, ogni sensazione di quel memorabile momento, nel tentativo di risvegliare la stessa collera per compiacersene. Quel giorno allo stagno aveva provato l'ultimo brivido della rabbia che si portava dentro. Anna aveva dimenticato e perdonato senza neppure esserne consapevole, ma ormai era troppo tardi per trovare rimedio. In ogni caso, né Gilbert né gli altri compagni e neppure Diana avrebbero potuto sospettare quanto le dispiacesse e quanto avrebbe preferito non essersi comportata in modo tanto orgoglioso e antipatico. Alla fine decise di avvolgere i propri sentimenti nel più profondo oblio. E ci riuscì talmente bene che Gilbert, forse meno indifferente di quanto sembrasse, non poté consolarsi con il pensiero che Anna soffrisse per il proprio vendicativo disprezzo. L'unico conforto, per quanto misero, fu che la compagna maltrattava Charlie Sloane senza pietà, senza mai dargli tregua e senza che lui se lo fosse meritato. L'inverno trascorse tra doveri piacevoli e studi interessanti. I giorni per Anna passavano come perle d'oro uno dopo l'altro nel lungo filo dell'anno. Era felice, impegnata e piena di stimoli. C'erano le lezioni da imparare per ottenere voti alti, c'erano libri appassionanti da leggere, nuovi brani su cui esercitarsi per il coro della scuola domenicale e deliziosi pomeriggi in canonica in compagnia della signora Allan. Così, in un battibaleno, a Green Gables era tornata la primavera e il mondo era di nuovo in fiore. A quel punto lo studio si fece un po' più noioso. Il gruppo della Queen's, che si fermava a scuola, mentre gli altri si disperdevano tra sentieri, radure e prati verdeggianti, guardava fuori dalle finestre della classe e scopriva che le declinazioni dei verbi latini e gli esercizi di francese avevano perso il gusto che avevano nei freddi mesi invernali. Perfino Anna e Gilbert rallentarono un po' il ritmo. Insegnante, allieve e allievi furono tutti contenti quando il trimestre si concluse e i giorni delle vacanze, tanto sognate, si schierarono sereni davanti a loro. Quest'anno avete fatto un ottimo lavoro, ragazze e ragazzi, li salutò la signorina Stacy l'ultima sera, e vi meritate una bella vacanza. Godetevi il più possibile la vita all'aria aperta e fate una bella scorta di salute, vitalità e ambizione che vi saranno molto utili nel prossimo anno, quando ci sarà la resa dei conti, lo sapete, l'ultimo sforzo prima dell'esame di ammissione alle superiori. Sarà ancora con noi l'anno prossimo, signorina Stacy? Si informò Josie Pye. Non si faceva il minimo scrupolo a chiedere ciò che voleva sapere, e in quel momento il resto della classe le fu grato. Nessuno avrebbe mai osato fare quella domanda ad alta voce, ma tutti avrebbero voluto conoscere la risposta perché da un po' a scuola girava la voce allarmante che l'anno successivo la maestra non sarebbe tornata. Si mormorava che le avessero offerto un posto nella scuola superiore del suo distretto e che lei intendesse accettarlo. La classe della Queen's restò quindi in attesa con il fiato sospeso. Sì, credo che ci sarò, disse la maestra. Avevo pensato di cambiare scuola, invece ho deciso di tornare ad Avonlea. Per dirla tutta, mi sono così affezionata alle mie allieve e allievi che ho scoperto di non poterli lasciare. Perciò rimarrò con voi fino alla fine. Evviva! Esclamò Moody Spurgeon. Non gli era mai capitato di lasciarsi trascinare tanto dall'emozione e per un'intera settimana arrossì ogni volta che ci ripensava. Oh, sono così felice! Esclamò Anna con gli occhi che le brillavano. Cara signorina Stacy, sarebbe stato orribile se non fosse rimasta con noi. Non credo che ce l'avrei fatta a continuare se fosse arrivata una nuova maestra. Quella sera, tornata a casa, la ragazzina salì in soffitta e mise tutti i libri in un vecchio baule. Poi lo chiuse e buttò la chiave nel cassettone delle coperte. Non voglio nemmeno guardarli in vacanza, disse Amarilla. Ho studiato come una forsennata per tutto l'anno e ho sgobbato su quella geometria, tanto a lungo che so a memoria ogni singola frase e formula del primo libro, anche con le lettere diverse. Sono stufa di essere giudiziosa e voglio lasciar correre la mia fantasia a briglia sciolta per tutta la stagione. Oh, non preoccuparti, Marilla, sarò molto ragionevole, ma quest'estate voglio proprio divertirmi perché forse è l'ultima in cui potrò sentirmi ancora un po' bambina. La signora Linde dice che se continuo a crescere come quest'anno, l'anno prossimo bisognerà allungare anche le gonne. Dice che sto diventando tutta gambe e occhi. Ma quando indosserò abiti più lunghi mi dovrò comportare di conseguenza. E comportarmi in modo più dignitoso. Mi sa che non potrò più credere alle fate, quindi quest'estate ci crederò con tutto il cuore. Ecco, penso che saranno vacanze molto divertenti. Tra poco ci sarà la festa di compleanno di Ruby Gillis. Poi ci sarà il picnic della scuola domenicale e il mese prossimo lo spettacolo del gruppo missionario. E la signora Barry ha detto che uno di questi giorni porterà me e Diana all'hotel di White Sands. Sai, la sera si può anche cenare nel ristorante dell'albergo. Jane Andrews ci è andata l'estate scorsa e ha raccontato che è stato incredibile, tra luci elettriche, fiori e signori eleganti. Ha detto che per la prima volta ha capito com'è la vita dei ricchi e che non lo dimenticherà mai. Il pomeriggio del giorno dopo, la signora Linde andò a trovarle, per scoprire come mai il giovedì prima Marilla non avesse partecipato alla riunione del gruppo di assistenza parrocchiale. Quando l'anziana signorina non si presentava a un incontro significava che a Green Gables qualcosa non andava. Oh, giovedì Matthew ha avuto un brutto problema al cuore, spiegò Marilla, e non me la sono sentita di lasciarlo solo. Sì, adesso sta meglio, anche se questi attacchi sono più frequenti del solito e sono preoccupata per lui. Il dottore si è raccomandato di evitare le emozioni forti, ma questo non è un problema perché Matthew non è tipo da cercarne, non lo è mai stato. Non dovrebbe neppure affaticarsi troppo. A uno come lui, però, è più facile consigliare di non respirare che di non lavorare. Si accomodi, Rachel, mi dia la giacca, si ferma per il tè. Beh, se insiste, Marilla, posso restare, acconsentì la signora Linde che non aveva mai avuto intenzione di andarsene. Rachel e Marilla si accomodarono in salotto mentre Anna preparava il tè e sfornava dei biscotti così leggeri e croccanti da riuscire a evitare le critiche della puntigliosa vicina. Devo dire che Anna è diventata proprio brava, ammise la signora Linde quando al tramonto Marilla l'accompagnò fino in fondo al vialetto d'ingresso. Deve esserle di grande aiuto. Certo, convenne l'altra, adesso è molto più equilibrata e affidabile. C'è stato un tempo in cui ho temuto di non essere in grado di farle cambiare quel suo carattere sbadato, invece ce l'ha fatta e adesso posso fidarmi di lei per qualsiasi cosa. Ah, non avrei mai immaginato che crescesse così bene quando l'ho conosciuta 3 anni fa, ammise la signora Linde. Non dimenticherò mai quella scenata. Quella sera sono tornata a casa e ho detto a mio marito Thomas: Sentimi bene, Thomas, Marilla Cuthbert rimpiangerà amaramente questa decisione. Mi sbagliavo. E ne sono sinceramente lieta. Non sono certo una che non sa riconoscere i propri errori, Marilla. Non lo sono mai stata, per fortuna. Mi sono sbagliata nel giudicare Anne e non c'è da meravigliarsene perché una streghetta più bizzarra e imprevedibile di lei non si era mai vista al mondo, poco ma sicuro. Era impossibile capirla se si pretendeva di applicare le regole che valgono per gli altri bambini. Si resta allibiti a constatare quanto sia migliorata in questi 3 anni, soprattutto nell'aspetto. Si è fatta davvero graziosa, anche se a me non piacciono particolarmente i tipi pallidi con gli occhioni. Preferisco un aspetto più vivace e colorito, come quello di Diana Barry o di Ruby Gillis. Ruby Gillis è davvero graziosa. Eppure non so perché, quando Anna sta insieme alle altre ragazze, anche se è meno bella, le fa sembrare tutte ordinarie e banali. È un po' come mettere quelle giunchiglie, che lei chiama narcisi, accanto a un bel mazzo di peoni rosse.